Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuto al call center incentivi del Ministero dello Sviluppo Economico. Gli incentivi del governo riguardano l'acquisto di beni rientranti nei seguenti settori: motocicli, cucine componibili complete di elettrodomestici efficienti, elettrodomestici, immobili ad alta efficienza energetica, internet veloce per i giovani, rimorchi e semirimorchi, macchine agricole e macchine movimento terra, gru a torre per edilizia, componenti elettrici ed elettronici, nautica da diporto. Se desidera informazioni sugli incentivi relativi ad internet veloce per i giovani, digiti 5. Per la sottoscrizione di un nuovo accesso a banda larga è concesso un contributo ai giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni, pari a 50 euro. Per tornare al menu principale, digiti 1. Per parlare con operatore, digiti 2. La preghiamo di attendere. Le risponderà il primo operatore disponibile. Insomma, stamattina per trovare il primo operatore disponibile è stata dura, ci ha provato il nostro Alessandro Longoni. Intanto buongiorno da Deborah Rosciani e bentrovati a Salva Danaio. Lo avrete capito, abbiamo composto anche noi questa mattina l'800-123-450, il call center incentivi 2010 di Poste Italiane, dedicato a tutti quei consumatori che vogliono informazioni sugli incentivi che sono stati erogati dal governo qualche settimana fa e che riguardano tanti settori, le cucine, gli elettrodomestici, l'ecocasa. E noi stamattina cercavamo qualche informazione in più sulle opportunità per i giovani che vogliono sottoscrivere abbonamenti internet, quindi tutto il tema della banda larga, questo bonus di 50 euro. Non è stato possibile parlare con un operatore, quindi il telefono squillava a lungo, però insomma le informazioni di base rispetto a questo pacchetto di incentivo c'erano. Allora noi stamattina, siccome vi abbiamo già indicato come funziona l'erogazione degli altri incentivi su questo settore, eravamo rimasti un po' indietro, allora anche per accontentare gli ascoltatori che ci hanno chiesto maggiori informazioni, stamattina parliamo proprio del bonus statale rivolto ai giovani che vogliono abbonarsi alla banda larga. Come vi ripeto, sono 50 euro, una tantum, con fondi pubblici che ammontano a 20 milioni di euro. Gli incentivi saranno erogati presumibilmente fino alla fine dell'anno, ma in realtà fino ad esaurimento. Qualcuno si è sbizzarrito anche a calcolare che 400.000 giovani almeno riusciranno ad ottenerli. Fino a questo momento abbiamo letto qualche giornale, anche pubblicato questa mattina, per esempio La Stampa fa un punto della situazione su che percentuale di erogazione c'è stata fino a questo momento. Il settore della banda larga segnerebbe un po' il passo, perché addirittura La Stampa parla di una distribuzione che ha riguardato solo il 4% dei buoni appunto per la banda larga. Uno degli operatori che abbiamo invitato questa mattina ci dice che invece l'incentivo è andato un po' meglio, almeno il 10% di fondi sarebbe già stato distribuito, al di là comunque della percentuale, la campagna di incentivo è ancora in piedi. Come si fa per ottenere questo bonus, a chi riguarda, soprattutto chi riguarda, l'abbiamo già detto, ma soprattutto siccome gli operatori del settore ovviamente hanno approfittato anche dell'iniziativa del Ministero dello Sviluppo Economico per formulare delle proposte commerciali costruite appositamente per questa fascia di clientela, noi stamattina ce le faremo raccontare e cercheremo di capire come fare a capire qualcosa di più anche se siamo dei non addetti ai lavori. Io sono una di queste, ovviamente sono fuori età, ma se qualcuno mi dovesse descrivere il miglior abbonamento internet per me farei un po' di fatica. Allora anche per i totali, come dire, digiuni del settore, gli daremo un po' anche un orientamento in questo campo, anche perché lo dobbiamo riconoscere, ma gli operatori lo sanno benissimo, non sempre le offerte degli operatori delle telecomunicazioni sono chiarissime, trasparentissime. E allora potrete rivolgere loro delle domande stamattina all'800 24 00 24. Chi abbiamo invitato, intanto ringrazio e saluto per essere con noi Marco Frattini, responsabile marketing consumer di Infostrada. Frattini, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno anche a Marco Tomaselli, responsabile marketing rete fissa di Vodafone. Tomaselli, buongiorno anche a lei. Buongiorno e buongiorno a tutti. E non potevamo naturalmente farci mancare il pungolo delle associazioni dei consumatori. Domenico Murrone, responsabile ADUC per le telecomunicazioni. Murrone, buongiorno, benvenuto a Salva Danaio. Buongiorno a voi. Abbiamo ricordato le modalità per intervenire ai nostri ascoltatori. Il numero verde lo conoscete benissimo, è l'800 24 00 24, oppure scriveteci al 349 238 6666. Adesso vi riepilogheremo la situazione con la nostra scheda, però lo sapete, abbiamo anche l'appuntamento fisso con la borsa che stamattina è un po' più incerta di ieri, ma dopo il balzo di ieri ovviamente ci aspettavamo le prese di profitto che sono abbastanza forti su Milano, che perde 0,5% dopo il balzo di ieri di 2 punti. Parigi perde lo 0,4, Francoforte si muove sulla parità, Londra è la peggior piazza d'Europa, perde lo 0,6%. Ieri le borse avevano brindato a molte trimestrali buone in arrivo dagli Stati Uniti, fra cui quella sorpresa del santuario degli investimenti Goldman Sachs, accusata di frode dalla SEC. In realtà gli utili vengono macinati a più non posso e il gruppo ieri ha presentato dei conti molto buoni, ma anche in nottata Apple ha fatto sapere di aver ottenuto dei risultati nel 2009 piuttosto convincenti per gli operatori, e questo stamattina sta facendo da traino al settore high tech. Un po' meno bene vanno le cose per l'auto, sicuramente tutta l'auto europea ha guardato anche le vicende del Lingotto di queste ultime ore. Il gruppo sta presentando in queste ore il suo piano industriale, ieri il riassetto dei vertici e l'uscita di scena di Luca Cordero di Montezemolo dalla presidenza del gruppo. Stamattina i titoli, dopo il balzo di quasi 10 punti di ieri, oggi perdono terreno: Fiat meno 3, Exor meno 3, il peggior titolo di Piazza Affari però è Azimut, che perde il 3,13%. Segno più su Buzzi Unice, ma più 3,84, STM più 1,66. Lasciamo la borsa, andiamo al tema di stamattina, ritorniamo agli incentivi statali. Stamattina ci focalizziamo su quelli per la banda larga. A partire dal 15 aprile, tutti i giovani dai 18 ai 30 anni hanno la possibilità di beneficiare degli incentivi previsti dal governo per la banda larga. In particolare, si tratta di un bonus di 50 euro per le nuove attivazioni di connessioni in banda larga mobile e fissa, valido, come per tutti gli altri incentivi, fino ad esaurimento fondi, in questo caso 20 milioni. Cosa bisogna fare per beneficiare del contributo? In realtà la procedura è molto semplice, perché è sufficiente richiedere l'attivazione di una nuova linea fissa o accendere un abbonamento per la navigazione in mobilità presso uno degli operatori. Ogni gestore poi applicherà l'agevolazione con modalità diverse, adattandola alla propria offerta. Ed è proprio per questa ragione che i diversi operatori hanno lanciato nei giorni scorsi offerte ad hoc, sia per il mobile che per il fisso, per accaparrarsi il maggior numero di giovani. 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi. Cominceremo tra un po' a sentire gli ascoltatori. Intanto vorrei partire da un quadro generale rispetto a questa campagna di incentivi. 50 euro per i giovani dai 18 ai 30 anni. Domenico Murrone, ADU, che so che voi avete una posizione molto precisa rispetto intanto agli investimenti nel settore della banda larga che il nostro governo, i nostri governi negli ultimi anni appunto hanno fatto in questo settore, sicuramente rispetto alle necessità che avrebbe il nostro paese è sempre stato fatto molto poco. Voi avete parlato qualche tempo fa di un parto di un topolino riferendovi agli ultimi incentivi, però è già qualcosa. Ne parlavo stamattina proprio con il mio assistente Alessandro Longoni, che ha realizzato quello stralcio che abbiamo sentito all'inizio. 50 euro sarà poco, però magari per un squattrinato studente universitario son pur sempre qualcosa, non trova? No, per carità, per chi può approfittare di un ulteriore sconto è tanto di guadagnato, insomma, sono comunque 50 euro risparmiati. No, la nostra critica è che a fronte di un'esigenza per lo sviluppo strategico della banda larga che generi sviluppo economico a tutti i livelli in Italia, il governo, con esigenze di miliardi di euro di investimenti, il governo già ha rimandato più volte lo stanziamento di 800 milioni che dovevano coprire il digital divide, quindi quelle zone che non sono ancora raggiunte dalla banda larga. Alla fine siamo passati da 800 milioni, che era già una cifra irrisoria, a 20 milioni, insomma, quindi come dire che di fronte ai tanti piani annunciati dal governo di digitalizzazione del paese abbiamo dato la paghetta ai giovani, insomma. Questo è un frangente purtroppo molto delicato, in cui il tentativo è quello di rilanciare i consumi, perché probabilmente una buona ripresa non può che partire da lì, e quindi è chiaro che ci si accontenta anche di questo. Magari insomma in un'altra puntata, Murrone, torneremo su questi argomenti che sono spesso affrontati dal collega Enrico Pagliarini nella sua trasmissione 2024. Focalizziamoci su questo incentivo, 50 euro, e come si fa per ottenerlo. Poi ci faremo raccontare ascoltare dagli operatori qual è l'approccio utilizzato con i clienti in questo momento, come si fa a sottoscrivere i nuovi abbonamenti che possono godere anche dell'incentivo. Le risulta, Murrone, insomma, quali sono, siccome anche in questo caso, un po' come per gli elettrodomestici e le cucine, la procedura rispetto a campagne di incentivi vecchie è un po' più complicata, perché c'è stato bisogno che gli operatori si accreditassero intanto al Ministero e poi ovviamente prima di dire sì all'incentivo da riconoscere al cliente bisogna verificare che l'incentivo sia ancora disponibile per questi per la banda larga, è ancora possibile appunto fare richiesta. Un po' più complicata la storia per esempio per le due ruote, ma questa è un'altra storia per l'appunto. Cosa pensate di queste procedure? Voglio dire, i vostri associati per esempio hanno rilevato delle criticità, delle difficoltà a far richiesta ad un operatore di TLC dell'incentivo? No, al momento no, anche perché i gestori telefonici sono aziende mediamente molto grandi, quindi sono ben oleate anche a supportare richieste notevoli. Dal punto di vista del consumatore è anche abbastanza agevole aderire ad un'offerta del genere, in quanto sfruttando i tradizionali canali può tranquillamente aderire anziché a un'offerta A a un'offerta B che include l'incentivo. Quindi in questo non abbiamo riscontrato particolari difficoltà, proprio per la struttura stessa dei gestori telefonici, che non sono piccole aziende che tutte si devono accreditare, quant'altro piccoli negozi o piccoli centri commerciali. C'è una rete consolidata, quindi da questo punto di vista non ci sono molti problemi. Il problema potrebbe sorgere nel caso in cui, ma al momento non ci sono i presupposti, ci fosse l'esaurimento dei fondi e di conseguenza uno che ha aderito ad un'offerta pensando di avere un costo annuo di X euro, alla fine magari senza incentivo potrebbe trovarsi a sopportare un onere maggiore e lì potrebbero sorgere dei contenziosi con il gestore telefonico. Tra l'altro, proprio pensando e ipotizzando una situazione di questo tipo, c'è un operatore che ha dato la possibilità ai clienti, mi sembra sia tre adesso lo recupero, sì, di per esempio fare la prenotazione entro il 15 aprile dell'incentivo, spiegando al cliente che qualora non lo potesse erogare perché si esaurisce, ma ancora non ci sembra che questa eventualità si possa concretizzarsi, gli riconoscerà appunto direttamente uno sconto dello stesso importo. Allora, io adesso direi di andare subito in pausa, quindi poi do così tutto lo spazio che devo a Tomaselli e Frattini di Vodafone e Infostrada, quindi non inizio per niente ancora la conversazione con loro perché poi li devo tagliare brutalmente visto che abbiamo già il primo stop, ma appunto ci faremo raccontare da loro come stanno informando la clientela dell'opzione incentivo del governo e in più che cosa ci hanno anche attaccato di altrettanto allettante in termini di proposta commerciale, insomma che cos'è adesso anche il segmento giovanile in termini di richiesta. Salva Danaio è ritornato sugli incentivi del governo, abbiamo affrontato tutti i campi che sono stati interessati a questi bonus e oggi ci mancava l'ultimo settore da analizzare, che è quello dell'investimento nella banda larga, cioè il 50 euro una tantum riconosciuti ai giovani dai 18 ai 30 anni che appunto vogliono attivare un abbonamento internet con la rete mobile o con la rete fissa. E allora abbiamo chiamato stamattina due operatori e un'associazione dei consumatori per aiutarci ad orientarci in questo settore. Sentiamo gli operatori. Marco Frattini, responsabile marketing consumer Infostrada Wind. Allora, come si fa ad ottenere questa agevolazione, chiamiamola così? Poi qualcuno continua a contestare, sono pochi, sono tanti, insomma è pur sempre qualcosa. Stamattina, ripeto, ne parlavo con un mio assistente che ha appena 25 anni, dice insomma per me sono comunque due pizze e per i giovani squattrinati sono pur sempre qualcosa questi risparmi, insomma non buttiamo via niente. E allora ovviamente pensate a tutto voi, quindi possiamo chiamarvi ai vostri numeri oppure venire presso un vostro punto vendita e ci pensa naturalmente tutto il punto vendita. Esatto, il processo è molto semplice, innanzitutto qua ci riferiamo sia alla DSL che lo vendiamo come Infostrada, sia alla banda larga mobile come Wind, quindi vale per entrambi i mercati. Ottenere il contributo è facilissimo, appunto basta semplicemente chiamare il 159 o il 155 sui nostri call center, piuttosto che andare sul sito infostrada.it per la parte della DSL o andare presso i nostri punti vendita. Pensiamo tutto a noi, ovviamente. Innanzitutto fatemi ricapitolare a chi si rivolge il contributo, perché noi lo diamo ai clienti che hanno un'età compresa tra i 18 e i 30 anni oppure per quanto riguarda la DSL, a quei nuclei familiari dove sì. è presente un membro del nucleo familiare che abbia questa età. Diciamo che il decreto, incentivi che fissa questa parentesi anagrafica, chiamiamola esatto, così. Esatto. Poi naturalmente lo sconto come viene riconosciuto? Perché non è che l'operatore dà un cash piuttosto che uno sconto, viene riconosciuto come sconto nelle bollette successive, come funziona? Assolutamente, lo sconto va praticamente ad aggiungersi a quelle che sono le promo che abbiamo al momento. Prendiamo l'esempio di Impostrada, così ci capiamo. L'esempio di Infostrada, prendiamo Infostrada Absolute, che è un prodotto che dà la linea telefonica, dà la possibilità di chiamare con solo scatola esposta di 12 centesimi e dà finalmente la DSL illimitato. Questo prodotto di per sé costa 29,95 al mese. Ebbene, noi per tutti i nuovi clienti che sottoscrivono Infostrada Absolute abbiamo una promozione che sconta l'abbonamento del 50% per tutto il 2010, quindi si va a pagare 15 euro. Per quei clienti che rientrano nella fascia 18-30 anni, eroghiamo il 50 euro sotto forma di prolungamento della promo che ho descritto precedentemente. Quindi, in estrema sintesi, il nostro nuovo cliente si troverà a pagare Infostrada Absolute 15 euro fino a marzo-aprile dell'anno prossimo. Ecco, quindi questo è molto importante da capire. Un euro in meno rispetto al canone Telecom. Ecco, però mi scusi una cosa, no? Adesso io le faccio questa obiezione che magari ci può fare anche qualche ascoltatore. Io credo che, per carità, non è una critica, solamente per far capire, giustamente, io credo che poi il Ministero dello Sviluppo Economico a voi lo sconto lo riconosca immediatamente. Perché procrastinarlo così tanto al cliente, invece? Sì, beh, in realtà poi dipende come lo si guarda, perché noi fondamentalmente lo sconto aggiuntivo è quello che eroghiamo nei primi mesi e poi prolunghiamo quella che è la promo che sì, sì, ma guardi, non volevo mettere in difficoltà, certo. Era solamente per farlo capire, però è così che funziona, comunque il Ministero voi lo riconosce in tempi abbastanza rapidi. Sì. Noi abbiamo optato per quella soluzione per semplicità di comunicazione sul cliente, noi abbiamo una promo per tutti nel momento in cui il cliente rientra in quel target, estende il periodo di validità della promozione. Benissimo. Fino a una capienza di 50 euro. Marco Tomaselli, Vodafone invece come ha recepito la campagna incentivi del governo? Insomma, voi come che tipo di proposta ci avete studiato sopra per la vostra clientela? Allora, come sapete, Vodafone ormai non è più solo un operatore di rete mobile, ma dal 2007 offre anche servizi per la casa e con oltre 1,2 milioni di clienti in banda larga è un operatore consolidato anche di rete fissa. E proprio in questa ottica Vodafone ha interpretato l'incentivo per la diffusione della banda larga andando a offrire ai propri clienti condizioni agevolate sia sull'offerta DSL che sull'offerta di connettività mobile. Sulla DSL l'offerta è molto semplice, quindi accanto alla promozione destinata a tutti i clienti che offre chiamate gratuite verso i cellulari Vodafone per tutto il 2010, i clienti che sono nel arco di età da 18 ai 30 anni o che hanno all'interno del nucleo familiare un membro in quella fascia di età hanno la possibilità di avere 50 euro di sconto ulteriore. In questo caso la scelta di Vodafone è stata quella di erogare il vantaggio al cliente in un'unica soluzione nel momento in cui il Ministero riconosce il vantaggio a Vodafone e quindi ma come fa un cliente a saperlo? Perché magari a voi potrebbe arrivare oggi e voi riconoscerlo al cliente fra un mese. Allora, come abbiamo detto all'inizio, ad oggi la disponibilità dei fondi è ampiamente garantita, avendo consumato complessivamente, si diceva all'inizio, circa il 10%, che questo devo dirlo, che è una notizia che ci ha dato lei, perché non ho trovato una conferma, però non cambia niente, insomma potrebbe essere il 15 come l'8, non è questo che conta. Sì. E quindi? Allora, diversa è la scelta sulle chiavette, sulle internet key, in cui abbiamo deciso di andare incontro ancora maggiormente alle esigenze dei nostri giovani clienti e in particolare abbiamo costruito un'offerta dando la possibilità per i clienti oggetto di incentivi di acquisire nei nostri negozi o sul nostro sito a soli 9 euro una Vodafone internet key ricaricabile, quindi dare lo sconto immediatamente al cliente nel momento dell'acquisto dello strumento per la connessione a banda larga. E Vodafone ha aggiunto a questa offerta assolutamente aggressiva sulle internet key anche 25 euro di traffico incluso. Quindi che sul prodotto più target con i nostri clienti giovani, abbiamo deciso di erogare immediatamente al momento dell'acquisto e quindi di garantire il vantaggio al cliente nel momento in cui entra nei nostri negozi e decide di procedere con l'acquisto. Tomaselli, 50 euro insomma per tutte le famiglie che esprimono questa perplessità sul fatto che sia poco o tanto, ma in ogni caso da quello che anche il vostro osservatorio ha comunque alimentato maggiore interesse da parte della clientela giovane, delle famiglie che qualche volta ovviamente ci mettono il denaro, perché anche se stiamo parlando di persone che arrivano fino a 30 anni non è detto che queste siano fuori di casa e economicamente indipendenti, è comunque a prescindere dall'incentivo, questo comunque ha alimentato un maggiore interesse intorno all'investimento in internet per le proprie abitazioni, per anche l'individuo, insomma, per i propri figli. Allora, sicuramente dobbiamo riconoscere che è un primo passo importante per la diffusione della banda larga. È stato particolarmente apprezzato e particolarmente positivo sull'offerta Internet Key, che probabilmente ha una soglia d'ingresso più bassa e quindi un impegno di spesa da parte dei clienti inferiore, e lì abbiamo sicuramente registrato dei risultati molto positivi. Murrone, adesso torno da lei, però sentirei anche un paio di ascoltatori, perché poi magari ci suggerisce in qualità di esperto di questo settore qual è secondo lei magari la modalità migliore che gli operatori hanno scelto per l'applicazione di questo bonus da riconoscere alla clientela. C'è chi allunga un abbonamento conveniente, chi invece lo riconosce in tempi più rapidi e con modalità diverse, come ci ha raccontato appunto Vodafone, in differenza rispetto a Wind Infostrada, ma insomma poi l'importante è che ognuno abbia di fronte a sé un'offerta chiara, ogni offerta è assolutamente legittima. Primo da Sondrio vorrei sentire però. Buongiorno Primo. Buongiorno. Ci dica. Niente, io ho una figlia di 16 anni e un figlio di 12. Sono fuori dalla domanda, non riesco a capire il motivo perché uno di 16 non può essere infatti, anche perché i nostri ragazzi, io non ne ho, ma vedo i figli delle amiche cominciano a manovrare internet in tempi assolutamente precoci, molto meglio di quanto non abbiamo fatto noi, che poi tra l'altro apparteniamo non proprio a generazioni di Matusalemme primo, magari, no? Quindi i suoi figli sicuramente lavorano su internet molto meglio di quanto non faccia lei. Esatto, a noi serve. Qualche anno fa c'era per quelli di 16, ne erano 12, adesso c'è per quelli di 18, ne ha 16. Scoprire. Allora, poi magari allora questo bisognerebbe chiederlo al ministro Scajola e al Ministero dello Sviluppo Economico, però ma magari poi chiediamo agli operatori se hanno delle offerte tagliate anche per famiglie che hanno figli in età più giovane, ma all'interno del quale naturalmente poi internet si utilizza lo stesso in maniera molto massiccia. Domenico Murrone, volevo tornare a lei. Ha sentito le offerte che ci hanno presentato gli operatori? Adesso ovviamente non vorrei che si scatenasse l'associazione dei consumatori, ma così per chiederle anche un giudizio su secondo lei qual è magari la migliore applicazione dell'incentivo. A nostro avviso, adesso poi nel dettaglio purtroppo riscontriamo che sono molto diversificate e rimane sempre un po' difficile, una sorta di difficoltà. Noi delle volte parliamo di giungla, ma non perché comunque sono tante e complesse da comprendere in tutti i suoi risvolti. E infatti bisognerebbe provarle per un anno e poi solo dopo si riesce a fare effettivamente a dare un giudizio. Per un anno magari se ho sbagliato. Comunque il consiglio, innanzitutto c'è un qualcosa che deve essere chiaro. È evidente che l'erogazione del contributo statale per la parte quindi dell'offerta che riguarda il contributo non dovrebbe essere soggetto a vincoli di alcun genere, a cominciare dalla durata, perché spesso, non solo in questo caso, che i gestori telefonici ovviamente incentivano a patto che ci sia un vincolo di permanenza, e questo delle volte si tramuta non in un'opportunità per il consumatore, bensì in un qualcosa di poco conveniente. Quindi stare molto attenti, insomma, in pratica il consiglio che si dà in generale per quanto riguarda le offerte dei gestori telefonici è quello di non solo vedere gli spot televisivi o sui quotidiani o per le radio, eccetera, non solo dare retta alle promesse che vengono formulate dai call center, ma andare puntualmente sul sito del gestore che uno pensa possa essere quello più adatto a lui e vedere tutte le clausole dei contratti, quindi non solo e le soprattutto cose che... magari mi permetta Murrone, magari su questo punto ci soffermiamo nell'ultima parte di Salvadanaio, perché funziona secondo me un po' come anche i prodotti finanziari, il conto corrente, avere una chiara coscienza dell'utilizzo che si fa di internet, perché vale come per ogni altro servizio servizio, come per la bolletta per la luce. Magari se si deve forse avere anche una chiara coscienza di quello che è il consumo. Certo, internet magari qualcuno lo tiene sempre acceso in casa perché ne fa anche un uso minimamente professionale, qualcuno magari lo accende un'ora la sera, allora magari in quel caso vale la pena prendere in considerazione un abbonamento totalmente diverso, a prescindere dall'incentivo e dall'offertona della società di telecomunicazioni. Delle volte l'utilizzo che si fa della connessione ADSL piuttosto che della telefonia in genere è anche funzionale all'offerta che si sottoscrive, quindi c'è un qualcosa che di interattivo, nel senso che io poi per esempio faccio una telefonata in più o mi connetto in più o in meno a seconda del tipo di offerta che ho sottoscritto. Quindi è un discorso è un po' più complesso, perché se io sottoscrivo un'offerta che mi dà la possibilità di connettermi a un costo fisso alla DSL, è evidente che poi tendo di sfruttare il più possibile questa opportunità. Al contrario, se so che è limitata nel tempo, quindi tipo un'ora al giorno oppure un tot ore al mese, a quel punto sono più parsimonioso. Quindi il comportamento del consumatore in quest'ambito è condizionata anche dello strumento che c'ha in mano. Allora, 800 24 00 24, avete ancora una decina di minuti di tempo per interagire con noi. Poi è pronto Giovanni da Roma, ritorno agli operatori, risponderemo anche all'ascoltatore che si sente un po' discriminato perché ha dei figli di età inferiore ai 18 anni, dice perché per me non c'è niente. Ancora pochi minuti di Salvadanaio per parlare degli incentivi del governo per chi attiva un abbonamento internet, i 50 euro una tantum da riconoscere ai nuovi utenti della banda larga dai 18 ai 30 anni. Marco Frattini, responsabile marketing consumer di Infostrada, ha sentito la perplessità dell'ascoltatore, dice: ma insomma, io ho due figli in età giovane, al di sotto dei 18 anni, ma ormai i ragazzi fanno un larghissimo uso ovviamente del web. Se le compagnie di telecomunicazioni non ci hanno pensato, magari forse è ora anche di cominciare a pensare a delle offerte per le famiglie con ragazzi in età più giovane. Forse il limite dei 18 anni è legato banalmente al raggiungimento della maggiore età. Innanzitutto è chiaro che se il target fosse ancora più ampio noi saremmo più che felici di erogare i 50 euro di benefici, però vorrei tranquillizzare molto il signor Primo di Sondrio, appunto. Questo perché? Perché noi abbiamo varie offerte, tra cui anche una assolutamente indicata, noi come Infostrada, una assolutamente indicata per le famiglie con ragazzi giovani. L'offerta si chiama Infostrada Tutto Incluso, questa è un'offerta semplicissima che dà ADSL senza limiti, voce locali nazionali senza limiti, non si paga più canone Telecom, il tutto a 39,95 euro. Anche questa offerta è in promozione, quindi indipendentemente dagli incentivi statali, è in promozione, scontata del 50% per tutto il 2010, e in più diamo anche una chiavetta Internet Key per navigare in mobilità. L'offerta per le famiglie, tipo quella del signor Primo, pensiamo che come Wind Infostrada ce l'abbiamo. Benissimo, allora Tomaselli, ovviamente devo far fare una proposta anche a Vodafone per quello che riguarda il nostro ascoltatore con quel tipo di nucleo familiare, però se ha un attimo di pazienza le metto insieme anche un'altra perplessità di un altro ascoltatore che è Luca da Venezia, perché questo è un aspetto molto importante quello che l'ascoltatore vuole sollevare, per cui lo saluto, lo sentiamo e poi Tomaselli le do la parola. Luca. Buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Mi dica tutto. Io sono fuori target, nel senso che ho 35 anni, ma una domanda... Non infierisca, Luca, sui fuori target. sto scherzando. No, una domanda mi è sorta spontanea, come si suol dire, sì. Ed è questa. Io ricordo quando ero studente, no? È vero, 50 euro posso far comodo nell'arco di un anno, però non dimentichiamoci che è un'offerta, come si dice, una tantum. E allora non è tanto per guardare in bocca al cavallo donato, come si suol dire, ma il problema vero è che se uno studente tra un anno o una famiglia tra un anno non è più in grado di gestire questo pagamento, di gestire questi soldi, insomma, di pagare, tra virgolette, si trova a dover interrompere il contratto e, come al solito, come sempre, come per tutte le compagnie telefoniche, si trova a dover pagare una penale che supera di gran lunga i 50 euro. C'è l'incentivo. Luca ha fatto una domanda bellissima e mi cospargo il capo di cenere, perché sono aspetti ai quali dovrei pensare io, ma ovviamente il mio rapporto con voi è ottimo proprio per questo motivo, perché mi pungolate sempre su aspetti ai quali non penso. Allora, Tomaselli, Vuole rispondere lei a Luca? Mi sembra un'osservazione assolutamente molto interessante. È chiaro che questi 50 euro, l'incentivo statale in questo momento alimenterà moltissimo la sottoscrizione di nuovi abbonamenti, perché molti ne vorranno approfittare, e però magari l'osservazione di Luca ci spinge intanto a suggerire a tutti di chiarire molto bene, prima di sottoscrivere il contratto, la modalità dell'eventuale chiusura del contratto, quindi che penali si pagano e quali condizioni devono essere osservate. Questo per un massimo, per la massima chiarezza nel rapporto fra gestore naturalmente e cliente. Detto questo, come rispondiamo all'ascoltatore? Allora, io due considerazioni. La prima è che volevo tranquillizzare Luca sul fuori target, nel senso che è in buona compagnia. La seconda relativa all'offerta. Allora, per chi ha... State dando tutti della vecchia gallina, insomma, stamattina, abbiamo capito. Per chi ha, diciamo, poca confidenza sul fatto che potrà nel tempo continuare a pagare i contributi mensili degli abbonamenti, Vodafone ha affiancato, come dicevo all'inizio, anche un'offerta ricaricabile. Nell'offerta ricaricabile che presentavo inizialmente con la Vodafone Internet Key a 9 euro con 25 euro di traffico incluso, non c'è nessun impegno di, diciamo, da parte del cliente di rimanere con Vodafone per un orizzonte temporale. Quindi, per chi fosse nelle condizioni di studente universitario con poca visibilità su quale potrebbe essere la sua situazione economica, certo, fra un anno, Ci sono soluzioni, e la soluzione Internet Key a 9 euro è sicuramente studiata per loro. Va bene, allora, quindi l'importante però, ecco, che tutte queste opzioni magari si aprano all'inizio del rapporto commerciale e non le si debbano tirare per la giacchetta alla fine del rapporto commerciale, quando magari un cliente vuole chiudere questi rapporti, se li vuole chiudere. Poi Domenico Morrone, ci vuole aggiungere qualcos'altro lei come suggerimento? Ma io, quando parlavo prima dei vincoli di durata, poi implicitamente alludevo anche alla richiesta di penale che, nonostante il decreto Bersani ne faccia divieto, ancora imperversano al momento della disattivazione di un contratto di un'utenza fissa e mobile. Ma questo è un ambito più largo. No, io non faccio altro che ribadire il consiglio: occhi aperti, leggere tutte le varie condizioni dell'offerta, in modo particolare anche eventuali costi di disattivazione, che spesso non sono costi di disattivazione, bensì sono configurabili come penali. Benissimo, io vi ringrazio, so che probabilmente non avremo toccato tanti aspetti che sollecitano la vostra curiosità, speriamo di avervi dato quantomeno le indicazioni proprio di base, di massima, per potervi orientare al meglio negli incentivi, ma in ogni caso i ragazzi dai 18 anni in avanti ne sanno moltissimo di internet e sono sicura che sanno orientarsi nelle offerte degli operatori molto, molto meglio di quanto non sappia fare io. Comunque, insomma, questo era anche per ricordare, per affrontare stamattina l'ultima grande parte degli incentivi statali che è stata messa in campo appunto di recente. Prima di concludere vi ricordo che si apre oggi a Milano il Salone della Gestione del Risparmio e noi stiamo concludendo il nostro rapporto per spiegarvi quali sono le parole del risparmio gestito. La parola di oggi è costi di gestione. Radio 24 e Assogestioni vi presentano le parole del risparmio. La scelta di affidarsi a dei professionisti per la gestione degli strumenti di investimento comporta inevitabilmente un costo. Le commissioni sulla gestione dei fondi o di altre vie di investimento sono applicate dai gestori dei prodotti. Questo sistema di remunerazione permette di allineare l'interesse dell'investitore con quello dell'intermediario. Di conseguenza, una buona performance dell'investimento produrrà benefici sia per il cliente sia per il distributore del servizio. Esistono quindi delle percentuali fissate sul patrimonio gestito che seguono l'andamento positivo dell'investimento. Questo sistema permette anche di incentivare sia il gestore sia il cliente nell'intraprendere strategie di investimento più oculate e volte a massimizzare al meglio i possibili rendimenti. Le parole del risparmio. E allora abbiamo terminato anche Salvadanaio di oggi. C'è un ascoltatore che scrive: sì, vabbè, a volte si compra la chiavetta e si scopre che a casa non c'è il segnale. Beh, Alessandro, quantomeno partiamo da casa prima di fare un abbonamento con questa informazione, cerchiamo di capire se la nostra abitazione ha la copertura sufficiente per fare un abbonamento a internet. Grazie a Marco Frattini di Infostrada, Domenico Morrone dell'ADUC, Marco Tomaselli di Vodafone, a Pietro Lacorte in regia, Gaia Romani in assistenza e redazione, perché non li saluto mai. Noi ci sentiamo domani, buona giornata. We'll be right back.